Il problema non è tanto essere o non essere spietati, il problema è la competenza. Nel momento in cui noi abbiamo situazioni molto difficili nel posto di lavoro, anche concorrenze accanite, anche situazioni estremamente conflittuali, ciò che in qualche modo rende un vessatore privo di ragioni è la sua incompetenza organica nel perseguire i prodotti e gli scopi del lavoro stesso. È la sua incapacità di mettersi in gioco, perlomeno di fare i conti in questa sua incompetenza, essere pieno di se stesso e quindi dover nascondere le sue incompetenze. Io penso che alla radice di ogni stronzo, cioè di ogni vessatore cronico, ci sia un'incapacità di riuscire a avere la giusta misura dei suoi limiti o delle sue splendide qualità. E quindi è una guerra continua nel dover mascherare, creare altri se stessi fittizi con i suoi capi, con i suoi dipendenti, con i suoi colleghi. E lì scatta il cortocircuito. Assolutamente sì, anche perché ognuno di noi può avere comportamenti da stronzo. Quello che distingue il vessatore da tutti gli altri è che non farà mai autocritica perché è dotato di un'altissima autostima. Quindi si difenderà sempre e comunque e perseguiterà gli altri fino a che non troverà qualcuno che è più vessatore di lui.